Temo di non essere la persona più adatta per scagliarmi contro il provvedimento con cui il Parlamento europeo ha autorizzato a denominare con il nome glorioso di cioccolato dei prodotti che fino a ieri o l'altro sarebbero rientrati al massimo nel limbo dei surrogati. Non lo sono da un lato, perché quello che vi neo definire il cibo degli dèi per antonomasia rientra, ahimè, nell'ampio novero delle golosità che mi sono vietate, e non è neanche tra tutte quelle nocive delizie quella di cui sento maggiormente rimpianto. E dall'altro perché anche quando potevo accedere liberamente a tavolette e bonbon non ero quello che si definisce un autentico cultore della materia. Anche in questo ambito ero di gusti, diciamo così, un po' troppo tolleranti. Invece di limitarmi al puro fondente, non senza essermi prima accertato che avesse un contenuto di cacao pari almeno al 70%, come avete appreso anche voi che fanno i veri appassionati, e io trescavo con ogni genere di prodotto. L'amico Felice mi scuserà, ma non mi dispiaceva il cioccolato al latte. E non trovavo nulla da ridire se ci aggiungevano delle nocciole, vuoi intere, vuoi in pasta. E io non faccio parte, per ovvi motivi d'età, della generazione della Nutella, ma ho molto amato i gianduiotti. E tra le specialità svizzere, quando potevo, sceglievo senza esitare il Toblerone, in cui, oltre alle nocciole al latte, credo c'entrasse anche il miele, figuriamoci. Insomma, non sono mai stato un purista, il che mi taglia fuori da una campagna di proteste che in nome appunto del purismo viene condotta. Capirete che quando si legge che il problema è quello di evitare che nel nobile prodotto entrino componenti che nulla hanno a che fare con il cacao, chi ama o ha amato delle varianti in cui oltre al cacao si ammettono latte, miele e nocciole si sente un po' tagliato fuori. Definire i criteri per cui su miele e nocciole si può transigere e sul burro di noce di mango no, può essere più difficile di quanto sembri a prima vista. Né gli uni né gli altri sono cacao. Tanto è vero che una volta mi è capitato di chiedermi come facevano i cioccolatisti puri ad accettare che nel loro prediletto fondente ci fosse comunque una certa dose di zucchero. Ahimè, ai tempi di Platone quell'alimento non era noto. Il che probabilmente spiega perché un'idea iperurania di cioccolato non sia disponibile. Il cioccolato come lo intendiamo noi nasce dalla storia, è un'invenzione umana, è anche abbastanza recente. Quello a latte è stato creato nel 1876 da Daniel Vevey e quello fondente nel 1879 da Rudolf Lindt. Certo. Non c'è bisogno di essere un purista per capire che la normativa che prevede l'uso di componenti di minor valore commerciale e nutritivo senza che presumibilmente nessuno abbia la minima intenzione di ribassare i prezzi al consumo e si avvicini molto alla truffa. E mi dicono che ci sia parecchio da dire dal punto di vista sanitario sull'olio di palma e sugli altri grassi vegetali che adesso si potranno impiegare al posto del burro di cacao. E concordo di tutto cuore con chi sottolinea la necessità di indicare sulle confezioni chiaramente in caratteri ben leggibili tutte le componenti dei vari prodotti, indicando magari quello il cui uso è nocivo come si fa sui pacchetti di sigarette. Ma che in questo mondo imperfetto la lotta per l'equità dei prezzi, per la sanità dei prodotti e per la trasparenza delle etichette possa coincidere con quella per la tradizione e per l'autenticità mi sembra, confesso, una pretesa eccessiva. E soprattutto mi sembra una pretesa eccessiva aspettarsi che un organo come il Parlamento europeo, per non dire dei partiti e degli uomini che ne fanno parte, si occupi della nostra salute o dell'equità delle nostre pratiche commerciali. Le istituzioni europee hanno la simpatica caratteristica di essere interamente sottratte a controlli democratici di qualsiasi genere, ivi compreso il Parlamento, che seppure a elezione diretta nasce comunque di riflesso rispetto al dibattito dei vari paesi, e viene lasciato per 5 anni a farsi i fatti suoi nel più splendido isolamento che si possa immaginare. Quella di un'Europa unita è una bella idea, un ideale che esprime fervide e annose speranze, come quella di superare una buona volta i nazionalismi e di vedere pacificato un continente in cui i popoli hanno sempre dimostrato e tuttora dimostrano qua e là una certa tendenza a scannarsi tra loro, ma forse varrebbe la pena di rendersi conto come in nome e con la copertura di questi nobili ideali si sia permessa la costruzione di un sistema istituzionale particolarmente adatto, visto l'assoluta mancanza di controlli, a recepire gli interessi consolidati, e in primis quello della grande finanza e della grande industria multinazionale. E cosa volete che interessi a costoro della nostra salute e delle nostre tradizioni alimentari? finché continueremo ad accettare senza discutere i loro poteri, saremo comunque condannati a mangiare le più immonde schifezze in base all'unico criterio del massimo guadagno possibile per chi ce le vende. In compenso tutti, nessuno ci vieterà di scandalizzarci. Nessuno ci vieterà di sciogliere commossi epicedi alla cioccolata, calda come l'Africa, scura come l'angelo della notte, pura come l'angelo del giorno e dolce come l'amore, per usare le ispirate parole di Talleyrand citate ieri l'altro in prima pagina nel Corriere della Sera, organo che non è esattamente il nemico più dichiarato delle multinazionali. Potremmo piangere sulla prevedibile sparizione del miele extravergine, sull'estinzione annunciata del lardo di colonnata e del formaggio di malga e sull'imminente abolizione dei forni a legna nelle pizzerie. Per le autorità che prendono le relative disposizioni, il problema non è quello di toglierci qualcosa di buono, il problema è semplicemente quello di eliminare sistematicamente ogni possibile concorrenza ai danni dei loro sponsor economici. Per noi, naturalmente, il problema dovrebbe essere quello di invertire a tutti i livelli, compreso quello europeo, il rapporto tra mercato e decisionismo politico, tra esigenze del capitale e necessità del cittadino, più o meno significa che per mangiare del buon cioccolato dovremmo fare la rivoluzione. Non so voi, ma io non me la vedo così bene.